barbare tribù, e tavol qua ti ha tanto nanti l'alma l'or indietro giur te notri acciari al lampo quasi invisibil man remette i fianchi l'or del deserto fatal rivarcaro il confine. La calma rinascea, acclamato il mio nome, un nuovo lauro cinge a me le chiome. Io son Peace.